nei campi. Settimanale per gli agricoltori del Friuli Venezia Giulia. Domenica 12 gennaio, il sole in regione è sorto alle 7.48 e tramonterà alle 16.44. La luna è calante e siete all'ascolto di Vita nei Campi. Buongiorno da Armando Mucchino e Rita Micoli. I cambiamenti climatici non influiscono solo su piante e coltivazioni, ci sono già evidenze anche nell'acqua, in mare e lagune, dove stanno cambiando temperature, correnti, popolazioni e prospettive. Ne parliamo oggi nel servizio di apertura con un biologo marino che ci fa il punto per il Golfo di Trieste e le nostre lagune regionali. A seguire il corsivo di Enos Costantini che apre a suo modo i contributi del 2020. Parlando di normative, ci sono da registrare nuove provvidenze per la montagna, in particolare per i giovani che vogliono lì investire in agricoltura. Per la rubrica dell'olio si entra nel vivo delle zone pedoclimatiche ottimali per questa coltura e a seguire una scheda sul parco di Villa Russitz, dove all'attività vitivinicola si affianca anche la solidarietà. Ancora una puntata sulla lunga querelle legata alle normative per le concimaie che non tanti anni fa addirittura aveva un concorso a premi per chi le realizzava. Andamento dei mercati, previsioni del tempo per la settimana entrante e il proverbio friulano della luna chiudono la puntata. La scorsa puntata avevamo affrontato il tema dei cambiamenti climatici e degli effetti che ha sull'agricoltura. Proseguendo su questi temi, ancora cambiamenti climatici, ma cerchiamo di capire cosa stia succedendo alla pesca e all'acquacoltura, che sono due segmenti del settore primario. Lo facciamo con Nicola Bettoso, che è un biologo marino dell'ARPA del Friuli Venezia Giulia. Mare e laguna, cosa sta succedendo? Sta succedendo che noi ci troviamo nel settore più settentrionale del mare Adriatico, ma addirittura del mare Mediterraneo, e anche qui stiamo accusando dei cambiamenti del clima. Mediamente la temperatura del mare si è innalzata, soprattutto anche a carico dei minimi invernali, tant'è che se una volta l'acqua di mare durante i periodi più freddi scendeva anche sotto i 7 gradi centigradi, oggi questo fatto si verifica per pochissimi giorni all'anno. Cambio anche di correnti. Cambio nelle correnti perché aumentano le temperature, durante anche e soprattutto l'estate c'è una maggiore evaporazione del mare, cambia la salinità, di conseguenza cambia il regime delle correnti, vengono accelerate, vengono rallentate, vengono deviate. E tutto questo influisce sulla dinamica della circolazione, soprattutto degli organismi planctonici in cui sono inserite le larve e dei pesci e dei molluschi bivalvi che dipendono da questa grande autostrada causata dalle correnti marine per arrivare in determinati luoghi e in determinati periodi dove hanno appuntamenti per quanto riguarda l'accrescimento, la riproduzione. Se saltano questi appuntamenti cambiano completamente i cicli. Com'è cambiata la colonna d'acqua e cosa provoca questo cambiamento? La colonna d'acqua sta cambiando anche per quanto riguarda la presenza dei nutrienti, perché è cambiato il regime delle precipitazioni, cambia anche la composizione degli organismi fitoplanctonici, che sono delle piccole alghe unicellulari che sono alla base della catena alimentare. Questo dipendono dalla concentrazione dei nutrienti che trovano nella colonna d'acqua e da particolari condizioni ideali di temperatura, salinità, ossigeno disciolto e quant'altro. Cosa succede ai pesci e dopo cosa succede ai molluschi? Per quanto riguarda i pesci, l'aumento delle temperature sta favorendo la presenza anche di nuove specie che un tempo erano rare, ora stanno diventando via via sempre più abbondanti, tant'è che alcune specie come il pesce serra ormai è diventata anche una risorsa bersaglio di pesca e si possono avere anche nuove specie, magari ad indole più tropicale, che possono venire a farci visita anche se per breve tempo comunque arrivano in queste zone. Nuovi competitori che mettono a rischio i vecchi abitanti di queste zone? Abbiamo anche dei vecchi abitanti perché essendo la zona più settentrionale del Mediterraneo abbiamo ancora dei famosi relitti glaciali rimasti dall'ultima glaciazione, ad esempio della passera di mare che compie il suo ciclo migratorio tra Golfo di Trieste, comunque mare e la laguna, e sicuramente si trova in un periodo climatico che sarà via via svantaggioso per questa specie. Molluschi in crisi. Stanno cambiando le comunità del fitoplancton, come dicevo, e anche i molluschi bivalvi hanno problemi di accrescimento, stanno crescendo in maniera molto più lenta Addirittura per quanto riguarda la produzione di molluschi si è passato da un ciclo di produzione paratriennale, addirittura ci vogliono ormai quasi 4 anni. Lei prima ci diceva che pesca e acquacoltura dovranno adattarsi al mare che verrà. Cosa troveremo di nuovo e cosa non troveremo più? Probabilmente se andiamo avanti di questo passo il mare sarà diverso, ci saranno diversi equilibri e i pescatori saranno senz'altro bravi ad essere molto elastici e a cambiare il loro mestiere via via. È probabile che passeremo da un ciclo di produzione tipico delle acque temperate come eravamo abituati, con un picco di produzione primaverile e un picco di produzione autunnale. Sicuramente le stagioni verranno spalmate con produzioni sostanzialmente inferiori a quello che erano una volta. Anno nuovo, problemi vecchi per l'agricoltura che patisce anche un disinteresse diffuso per le sue sorti, come ci dice in questo corsivo Enos Costantini. Il 2019 prossimo passato è stato l'anno di Leonardo. Un amico americano in visita pensava che Vinci si trovasse in Carnia. È anche stato l'anno in cui la Società Filologica Friulana nata a Gorizia ha celebrato il suo centenario, e lo stesso dicasi per il centenario della Deputazione di Storia Patria del Friuli. Nessuno si è accorto però che Vita nei Campi, la più vecchia trasmissione italiana, ha compiuto 55 anni. Tutti gli altri sono passati, così sono passate l'Asci Ora Doppia, il Dada Umpa delle gemelle Kessler, Canzonissima, mentre Vita nei Campi sempre dura il pezzo. Resta con la sua inconfondibile sigla e, come dicono molti, domenica non è domenica se non si ascolta Vita nei Campi. Il 2020 segnerà il 600° anniversario della conquista veneziana di quel Friuli che poi si chiamerà Ex Veneto. La Serenissima si guadagnò così molto legname per il suo arsenale, assieme a un popolo di sudditi poco reattivi, e una bella fascia di territorio cuscinetto per assorbire gli eserciti imperiali e le scorrerie bosniache. Trieste, più sveglia, si era messa sotto la protezione austriaca già nel 1382. Il Paron è sempre meglio averlo lontano. Tutto ciò per dirvi anche che nel 2019 ricorrevano pure i 300 anni del Porto Franco, premessa a quell'età teresiana a cui tanto deve la città alabardata. Io non ho guardato il fumo dei tanti pignarui che hanno inquinato, così si disse, il puro aere furlano, ma pur non essendo Nostradamus qualche previsione mi è facile. Chiuderanno altre fabbriche. La cosa finirà sui giornali, un politico dirà qualcosa e tutto finirà lì. Chiuderanno anche aziende agricole e allevamenti. La cosa non finirà sui giornali e nessuno dirà niente. E anzi ancora vitale quel sotterraneo sentimento che la fine del mondo agricolo sia segno di progresso e financo di civiltà. Siamo rimasti indietro. Mentre la Cina si fa sempre più vicina. Sempre più vicina non solo perché produce l'80% degli ombrelli mondiali, e la sola città di Qiaotu produce l'80% dei bottoni e delle cerniere lampo mondiali. Lo scontro sarà sulla tecnologia. Non dobbiamo però temere una nuova colonizzazione culturale, perché la Cina si è abbondantemente americanizzata ed è interessata agli skei, non a portarci il Confucio o il comunismo. Dobbiamo invece preoccuparci della nostra economia agricola e della nostra sovranità alimentare. Per esempio, convertendo quel fagiolo cinese che si chiama soia in un fagiolo nostrano, buono, pulito, friulano e sano. Il 2020 si apre con importanti novità per i giovani interessati a sviluppare imprese agricole o forestali in zona montana. Ne parliamo con Marco Malison, responsabile tecnico-economico di Coldiretti del Friuli Venezia Giulia. La legge di stabilità 2020 recita testualmente: al fine di contrastare l'abbandono dei territori montani e il conseguente dissesto idrogeologico, la Regione valorizza il patrimonio rurale boschivo e rafforza il tessuto imprenditoriale agricolo e forestale. La problematica è inquadrata inquadrata in modo tanto chiaro quanto sintetico nel comma successivo, si capisce che le possibili soluzioni sono demandate a una strategia, una sorta di piano operativo, predisposto dalla direzione centrale che sarà adottata entro un anno dalla Giunta. I tempi quindi lunghi? No, in attesa dell'adozione della strategia regionale, la legge di stabilità istituisce da subito un regime di aiuto dedicato ai giovani, soggetti con età compresa fra i 18 e i 41 anni non compiuti, che si impegnano a costituire nuove imprese o a sviluppare imprese esistenti in zona montana e aventi come oggetto la produzione di prodotti agricoli, l'allevamento, la loro trasformazione, la commercializzazione, ma anche la gestione forestale e la trasformazione del legno. Per poter avere accesso agli aiuti dovranno però impegnarsi a mantenere la residenza e l'attività di impresa in territorio montano per almeno 5 anni. Rispetto ad altri regimi di aiuto, quali sono in questo caso le novità? I contributi sono concessi in regime de minimis, quindi con massimali compresi fra 20.000 e 200.000 euro a seconda dell'attività di impresa. La cosa interessante rispetto ad altre misure è che sono finanziabili indifferentemente anche l'acquisto di terreni, di animali, di fabbricati, di macchinari e attrezzature, le spese di ristrutturazione, di promozione e di conduzione aziendale, persino l'IVA ove non detraibile. L'intensità di aiuto è dell'80% sulla spesa ammessa, elevabile al 100% per l'acquisto dei terreni. I contributi sono concessi con procedura a sportello, secondo l'ordine di presentazione delle domande e fino all'esaurimento del budget, che per il 2020 è fissato a 800.000 euro. Altre cose da sapere? Le domande possono essere presentate a partire dal 1 febbraio prossimo. Chi ci ascolta deve sapere che gli aiuti di cui stiamo parlando sono compatibili con i finanziamenti agevolati del fondo di rotazione in agricoltura. Resta invece da chiarire se siano anche cumulabili con i premi per il primo insediamento previsto a misura 611 del PSR, i cui bandi sono stati appena aperti e scadranno il prossimo 30 di aprile. Ennio Scarbolo, dopo una premessa su olio e olivicoltura in Friuli Venezia Giulia, passa alle zone pedoclimatiche, o meglio, in parole semplici, dove si può e dove non si può piantare l'olivo nella nostra regione. Come abbiamo evidenziato nella premessa storica, appare evidente che i limiti a questa coltura in Friuli Venezia Giulia è essenzialmente il clima invernale, che si rivela ogni anno una grossa incognita e che può risultare fatale per la coltura dell'olivo. Temperature minime invernali di meno 5 e meno 6 potrebbero danneggiare i rami dell'anno e compromettere la produzione, specie se si protraggono per lunghi periodi. Ma non solo le basse temperature, anche l'umidità dell'aria e il rimescolamento di essa. I danni maggiori si verificano negli impianti fatti in terreni umidi con stagni d'acqua e associati a forte vento, vento di borra scura invernale a oltre 100 km orari, impianti della bassa pianura friulana. Viceversa, temperature minime anche di meno 10 e meno 12, ma in un contesto climatico asciutto, ventilato e a bassa umidità nell'aria e nel terreno, la pianta subisce danni limitati, impianti della zona di Cividale, Premariaco e Moimaco. Hanno notevole importanza la scelta dei terreni per la messa a dimora dell'oliveto. Sono favorevoli quelli collinari esposti a sud. In pianura non deve ristagnare acqua o trattenerla. Non devono essere argillosi, anche tenendo conto dell'elevata piovosità nella nostra regione, che va dagli 800-900 mm della zona di Trieste ai 1000-1200 della bassa pianura friulana, dai 1200 ai 1500 dell'alta pianura e 2000 mm e oltre nella zona di Tarcento e Gemona. L'olivo si adatta a molte situazioni agroambientali, in terreni in prossimità del mare, salini, in zona laguna di Grado di Marano, o pH subacidi, zona Cassacco, o con pH alcalino zona di Maniago. Però questa eccezionale adattabilità della coltura non deve trarre in inganno i potenziali olivicoltori. L'olivo nella nostra regione rappresenta il limite nord dell'areale di coltivazione e sopravvivenza della specie. In sintesi, le zone veramente vocate e sicure alla coltivazione dell'olivo dal punto di vista climatico non ce ne sono, esistono solo al sud Italia. Invece ci sono zone dove il rischio è minore, zona di Muggia, San Dorligo della Valle, Pedemontana, Perdelonese. Queste sono molto simili ad altre realtà climatiche del Veneto, dell'Umbria, della Toscana, dell'Emilia Romagna. Continua con Franca Merluzzi il viaggio di vita nei campi tra parchi e giardini del Friuli Venezia Giulia. Oggi siamo al parco di Villa Russitz, a Russitz Inferiore, in comune di Capriva del Friuli, zona vocata alla viticoltura di qualità. Il parco si estende oltre il cortile della villa, detta anche Castelletto della Tour, ben visibile da lontano con le sue bianche facciate e le sue torri. Il paesaggio circostante è disegnato da vigneti dove si producono vini pregiati e il parco è una macchia verde scuro tra le morbide ondulazioni che precedono il collio. Questo luogo porta con sé una storia d'amore e di generosità. Il parco non è molto grande e ha subito danni durante la Prima Guerra Mondiale. Ora si presenta con esemplari di pino d'Aleppo, tassi, magnolie, gruppi di lauro e di leccio, conifere e palme con accostamenti di specie che richiamano la vegetazione dei giardini goriziani e di Miramare. Fa parte della tenuta in cui già nella seconda metà dell'Ottocento si sperimentava la viticoltura di qualità. Questo grazie al conte Théodore de la Tour, che qui risiedeva assieme alla consorte Elvine Ritter, esponente di una ricca famiglia goriziana. Stando alle fonti d'epoca, il conte era un agronomo esperto e lungimirante. Sì, come risulta dai vini presentati alle fiere regionali del tempo, il conte si dimostrò innovativo nella scelta dei vitigni, provenienti tanto dalla Francia quanto dal mondo germanico. I due coniugi dotarono il contesto di edifici agricoli, di una chiesa e del parco. Elvine volle adibire alcuni locali ad asilo per i bambini più poveri del paese e a dormitorio per bambine orfane e abbandonate, dando avvio a un'istituzione benefica che tuttora continua attraverso la Fondazione Villa Russitz. Senza fini di lucro, la Fondazione gestisce un patrimonio agricolo di 45 ettari di vigneti DOC Collio, i cui proventi sostengono la casa famiglia per adolescenti in difficoltà che ha sede negli edifici ristrutturati. Villa Russitz è posta lungo itinerari a piedi e in bicicletta che si inoltrano nel Collio friulano e sloveno. Durante le visite guidate si entra nelle cantine dove il conte faceva maturare i vini assai apprezzati nell'impero asburgico. Attraverso un sentiero fiancheggiato da cipressi si sale al tempietto eretto in sua memoria sulla piccola altura da cui si gode una bella veduta. Nella nona puntata dedicata all'etame con Sandro Menegon eravamo rimasti alla obbligatorietà della costruzione delle concimaie entro gli inizi del 1934. Cosa successe? Tralasciando gli aspetti legali, indubbiamente la carenza dei concimi chimici portò a un maggiore interesse per quelli di natura organica e a pratiche come il sovesio. Nel 1943 si ricordava: il letame è sempre stato il re dei concimi e ora, più che mai, gli riconosciamo tale primato. Come re ti competono i dovuti onori, cioè compressione quotidiana e adeguato inumidimento perché si trasformi in massa burificata. E così siamo passati al secondo dopoguerra. Dagli articoli pubblicati sull'agricoltura friulana, pozzetti nelle stalle, vasche alle concimaie, fate le vasche per i colatici, riferite alle stalle di pianura, e bando di concorso per miglioramento di stalle e concimaie e miglioramento delle stalle, concimaie e montagna, si può vincere, pur considerando gli esonerati, che l'adeguamento al decreto del 1926 e norme successive non era stato molto rispettato. Quindi, come negli anni 20, negli anni 50 si ristamparono i progetti per la costruzione di concimaie razionali e si ridiedero notizie sui bandi per concorsi a premi per la loro costruzione. Dal 1950 al 1962 vennero riattate 3.919 stalle in montagna della loro provincia di Udine grazie ai contributi della Cassa di Risparmio di Udine, dell'amministrazione provinciale e del Ministero dell'Agricoltura. E con Amos D'Antoni l'andamento dei mercati agricoli. Andamento in crescita alle contrattazioni cerealicole delle Camere di Commercio di Udine, dove il mais con umidità 14% è stato quotato tra 16 e 16,20 euro al quintale IVA esclusa. La soia tra 34,30 e 34,60. L'orzo con peso specifico 60-63 tra 15,80 e 16,30. Il frumento tra 18,50 e 18,80. Rispetto ad un anno fa il mais è diminuito di 90 centesimi il quintale e la soia è aumentata di 90 centesimi. Scambi discreti all'ortofrutticolo di Udine con prezzi in salita, l'insalata gentile e la lattuga Trocadero vengono quotate all'ingrosso tra 1,50 e 1,70 euro al chilo, IVA esclusa. Le zucchine tra 2,20 e 2,30, i peperoni gialli e rossi tra 2 e 2,10, le melanzane tonde tra 1,60 e 1,80, la scarola riccia tra 2,50 e 2,70, i pomodori italiani in grappolo tra 1,80 e 2 euro, i finocchi tra 1,40 e 1,60, i cavoli tra 1,50 e 1,80, il radicchio rosso tondo tra 0,80 e 1 euro, quello di Treviso precoce tra 1 e 1,50, le patate novelle tra 0,70 e 0,90, i kiwi tra 1,70 e 2,20, le mele golden tra 1 e 1,50, le clementine tra 1,50 e 2,20, le arance tarocco tra 1,20 e 1,80. Settimana discreta nel settore della pesca per condizioni climatiche buone. Alla cooperativa pescatori San Vito di Marano Lagunare i branzini suddivisi in piccoli, medi e grandi sono quotati da 13 a 22 euro il chilo IVA esclusa, i rombi da 20 a 26, le ombrine da 10 a 28, le sogliole da 5 a 18, le canocce da 3 a 8. Infine tendenze stazionarie nel mercato degli avicunicoli con i poli a terra pagati tra 0,85 e 0,87 euro al chilo, i tacchini maschi tra 1,45 e 1,47, le faraone tra 2,30 e 2,34, le anatre tra 2,55 e 2,59, le oche tra 4,85 euro, i conigli oltre 2,5 kg quotati dal CUM di Verona tra 2,65 e 2,71. Con il previsore dell'ARPA Osmer Sergio Nordio sentiamo cosa ci riserverà il meteo nella settimana entrante. Gennaio finora è stato caratterizzato da temperature abbastanza miti in quota, dove si sono registrati spesso valori sopra la media, con zero termico intorno a 3.000, mentre più in basso, in pianura, a nottate fredde, sono seguite giornate tiepide, praticamente assenti le precipitazioni. L'anticiclone che sta dominando sull'Europa centro-occidentale sta mantenendo e manterrà ancora per la prossima settimana stabilità atmosferica. Fino ad oggi, però, la presenza di deboli o moderate correnti nord-orientali secche nei bassi strati, hanno contribuito a regalarci belle giornate soleggiate e anche miti di giorno. Da domani le condizioni cambieranno progressivamente. Il permanere dell'anticiclone favorirà maggiormente nei prossimi giorni il ristagno di umidità nei bassi strati. Avremo pertanto giornate buone in montagna, a parte delle velature domani, sempre caratterizzate da cielo sereno o poco nuvoloso, mentre su pianura e costa avremo progressivamente un aumento della nuvolosità per la formazione di nubi basse, foschie e forse anche di nebbie. Questa situazione di ristagno atmosferico, dovuta anche ad una prevista persistente inversione termica, probabilmente più marcata nella seconda parte della settimana, provocherà anche un peggioramento della qualità dell'aria, oltre che maggiore umidità nei bassi strati, condizioni che si presentano comunque frequentemente in questo periodo dell'anno. Le temperature inizialmente saranno un po' più basse di notte, in pianura e nei fondovalle, con alcuni gradi sotto zero. In settimana poi saliranno di qualche grado, mentre le massime su pianura e costa passeranno dai 5-8 gradi agli 8-10. Verso la fine della prossima settimana potrebbe verificarsi un cedimento dell'anticiclone, ma essendo previsioni molto lontane, sarà decisamente opportuno seguire l'aggiornamento delle previsioni. Termina qui la puntata odierna. Vogliamo lasciarvi con il proverbio friulano dedicato alla luna. Ogni mes si fa la luna e ogni dì si impara une, ovvero ogni mese c'è un ciclo lunare e ogni giorno si impara una cosa nuova. Proverbio diffusissimo sulla ineluttabilità delle cose e della vita. Coordinamento tecnico di Ugo Nicoletti, nostro indirizzo mail è vitanicampi@rai.it. Potete trovarci su Facebook e sul sito della TGR del Friuli Venezia Giulia. Armando Mucchino, Rita Micoli e tutta la redazione vi ringraziano e danno appuntamento a domenica prossima. Avete ascoltato? Vi